Mystery Tour. Mystery Tour. Mystery Tour. La trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata ai misteri interplanetari, alla cultura trash e alla musica inaudita su tutti i fronti. In onda ogni domenica alle ore 20. Non mancate all'appuntamento con... Scusate ma l'immondizia mi dà alla testa. Mystery Tour Forever. Ogni domenica alle 20 su Radio Onda d'Urto. This is Angry Bob, the man with the industrial dick, coming at you loud and clear on WAR Radio. Rise and shine, folks. It's a beautiful day. Just look at that sky. It's a work of art. Ha! Nature never knew colors like that. And a friendly reminder, when you look at it, be sure to wear your shades. The radiation counts way up and the heat wave ain't expected to let up either. Weather control tell us it'll probably hit 110 downtown before nightfall. As for the good news, there is no fucking good news. So let's rock with one of our golden oldies. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Mystery Tour qui in onda sin dal 1998 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, un po' di misteri interplanetari, di cultura trash, di musica inaudita. Potete chiamarci allo 030 456 70, oppure inviarci un fax allo 030 377 1921, o meglio ancora visitare il sito www.misteri.buonanotte, questo era quello vecchio, mtour.co.nr come numero, oppure il myspace.com/mtour. Potete riascoltare le puntate vecchie, potete ascoltare delle interviste molto interessanti, insomma un sito abbastanza, due siti abbastanza completi per tenervi in contatto con noi. Questa sera, a differenza di quanto annunciato domenica scorsa, non andrà in onda la competition dedicata ai Saxon, in quanto il concerto dei Saxon è stato spostato da martedì. Martedì avrebbe dovuto aver luogo al Live Club di Trezzo sull'Adda e invece è stato spostato al 15 marzo. Quindi segnatevelo, amanti della New Wave of British Heavy Metal e dei Saxon: martedì 15 marzo vengono i Saxon in Italia, allora faremo la compilation per i biglietti in omaggio. Allora, questa sera la competition, stasera la compilation dei Saxon, beh, in fondo si potrebbe anche fare una compilation per gli ascoltatori, data la loro sconfinata discografia. Essere da soli è sempre un po' più difficile, sono già due domeniche che sto da solo, il professore è ammalato, impossibilitato addirittura all'utilizzo del telefono, proprio raffreddatissimo, quindi questa sera dovrò farmi in due come ai bei tempi. E dunque iniziamo appunto parlando di bei tempi, di nostalgie e di grandi situazioni che esistevano in Italia e in questo caso anche a Brescia negli anni 90. Era il 1995 e usciva il demo 3 del progetto Max Venturi, del compianto Max Venturi, appunto. Purtroppo ci ha lasciati, però ci ha anche lasciato dei veri capolavori, fra cui questo demo 3, appunto. Ricordiamo, musica composta dal magister Claude Cominardi, che salutiamo e presto spero avremo anche qui in onda, come qualche tempo fa. Appunto, prima di prendere una piega più spiccatamente 90s, Nine Inch Nails avevano questa vena assolutamente romantica, progressiva in senso buono. Noi ci ascoltiamo una bellissima ballata, e Seoni, Max Venturi. sostanza osserva, non dice più niente, ascolta, respira con aria assorta, come volesse capire, comprendere un triste silenzio dentro di sé. Cosa che voglia nascondere, occhi profondi e seri, scavati da quei pensieri, fissati sì come vetri sulle pareti del cuore e dell'anima, donandole rabbia e oscurità. Graffiando la carne senza pietà, mentre di fuori la gente rincorre il presente, la vita si stanca di correre, frena, cercando di farsi sentire, vedendosi invece morire scordata da quella marea di persone che fondono insieme, colando in un unico stampo confuso e stanco. Nasconde il viso, dimentica tutto quanto, vede soltanto le cose che intorno e riscopre la vita fuori di sé. Riscopre la vita fuori di sé. Prima la cercava dentro, cercava una via di scampo, rifugio di un comodo pianto, non lo capiva di prendere solo tempo, di prendersi solo gioco di sé. Semplicemente gioco di sé, mentre di fuori la gente rincorre il presente, la vita si stanca di correre, frena, cercando di farsi capire, vedendosi invece morire scordata da quella marea di persone che fondono insieme, colando in un unico stampo confuso e stanco. Un capolavoro di poesia questa Seoni, e in generale tutto il demo 3, che appunto contiene tre brani. Infatti in realtà non era il terzo demo, a quanto mi risulta, assolutamente il primo, registrato nel 95 appunto da Claude Cominardi e dal buon Max Venturi, che ricordiamo sempre con tanto affetto. E dunque rimaniamo in ambito nostalgico. Pochi anni dopo, 1999, A Treviso, una volta uscito dagli Asgard, anzi usciti dagli Asgard, Max e Marco Micheletto formano i Micheletto Bros, forti della loro esperienza in quel di Hollywood, dove per un anno si sono diplomati in chitarra e batteria. Tra l'altro questa sera registreremo un'intervista con Max Micheletto, appunto dei Lost Iguana, che potrete ascoltare poi sul sito www.mtour.co.nr. E quindi noi ci ascoltiamo un pezzo che risente molto della loro influenza americana, del loro soggiorno in America, e si chiama infatti Hollywood Boulevard Micheletto Bros. Tecnici, nonostante tutto, d'altra parte un CD pluriascoltato come questo non può far altro che saltare. E dunque, anche se da solo ci proverò appunto a rendervi edotti circa mondo trash, notizie squallide da un mondo squallido, ci sono notizie a tutto il mondo. E ringraziamo come al solito l'amico Federico da Lussemburgo che ci fornisce sempre trash fresco di giornata, immondizia, spazzatura, cosmopolita veramente. Per esempio, cosa succede? Cosa succede a New Delhi, in India? Posto che ci fornisce spesso notizie adatte al nostro angolo. Dice l'ANSA: rissa tra piloti, steward e hostess su un volo Air India. E vabbè, fin qui è già abbastanza trash. Però addentriamoci nella notizia. Prima gli insulti, poi gli spintoni e infine una vera e propria rissa fra piloti e assistenti di volo della Air India. Teatro della scazzottata, non un aeroporto ma un volo internazionale. Quindi durante il viaggio, secondo il Times of India, a seguito della rissa, la compagnia ha aperto un'inchiesta e ha sospeso due piloti e due membri dell'equipaggio. Mentre l'aereo si trovava in volo tra Nuova Delhi e Sharjah, alcuni membri dell'equipaggio hanno cominciato a scambiarsi insulti e sono anche passati alle vie di fatto dopo che una hostess aveva accusato i piloti di molestie sessuali. Di fronte a centinaia di passeggeri impietriti e stupefatti, la rissa si è spostata nella cucina dell'apparecchio e a un certo punto è rimasta vuota la cabina di pilotaggio. In più, uno dei piloti ha anche minacciato di dirottare l'aereo verso il Pakistan. Il giornale non racconta come sia finito il litigio, ma precisa che la polizia ha aperto un'inchiesta contro i comandanti. Curiosa l'accusa: oltraggio al pudore, non tentato omicidio di massa. E vabbè, è sempre in tema di botte. Succede qualcosa di interessante invece a Londra. Due travestiti vengono attaccati da due bulli. Ma fortunatamente non finisce come al solito. Qui due travestiti vengono pestati dai due bulli, ma succede il contrario. Visto i due travestiti sono dei lottatori di cage fighting, sport estremo senza esclusione di colpi. Gli aggressori, ubriachi, sono finiti KO in pochi istanti nel Galles. Ci sono delle immagini, cercatelo magari su YouTube o sul sito del Corriere della Sera, dove c'è questa notizia, perché c'è anche il video, è interessante vedere questa cosa. Allora, i due giovani bulli si avvicinano ai due travestiti e uno dei due sferra un pugno a uno dei travestiti vestito con una parrucca rosa, minigonna e top. L'altro travestito sferra poi un paio di rapidi colpi a entrambi, sbattendoli a terra e aggiungendo un paio di calci. I due travestiti in realtà erano lottatori che stavano andando a una festa di addio al celibato in maschera e se ne sono andati tranquillamente dopo aver raccolto le borsette. Questi qua, rimasti a terra, i due bulli, sono stati anche arrestati dalla polizia, perché grazie al circuito chiuso alle telecamere sono stati pure incriminati. È veramente stupenda questa cosa. Sempre in Inghilterra non si vive una vita tranquilla. Qui l'ANSA dice: festa rumorosa, lancia molotov su casa vicini. Un 49enne scozzese è stato condannato a 2 anni di reclusione per aver fatto irruzione nella casa dei vicini a Glasgow. Era armato con una fucile ad aria compressa e una bomba molotov. Dietro di lui la moglie brandiva una pistola. Larissa, 17 anni, stava dando una festa per l'ultimo dell'anno. E quindi è successo qualche tempo fa. E scoccata la mezzanotte sono partiti fuochi d'artificio. Così sono saltati i nervi ai vicini che, come hanno spiegato in loro difesa, volevano guardare la televisione. E vabbè, è giusto utilizzare una molotov per azzittire i vicini. E tiriamo la prima catena della serata, perché è veramente disgustoso il quantitativo di immondizia che ci sta sommergendo. E continuiamo nella nostra carrellata nostalgica dedicata alla musica inaudita, certo rock progressivo, soprattutto italiano, ma in questo caso anche bresciano. Dopo se ci ascoltate il progetto Max Venturi da Brescia, appunto i Trevigiani, Micheletto Bros, torniamo a Brescia per ascoltarci questi Litos del buon Gustavo, che salutiamo. Questo demo primo del 2001, dal quale estraiamo In Nessun Tempo. Loro sono Litos su Radio Onda d'Urto. E bravi i nostri Litos, che però non sono la colonna sonora adatta, grazie a loro, il nostro angolo dedicato all'immondizia. E dunque, ancora un paio di notizie. Angolo non particolarmente ricco, però molto significativo. Estrapoliamo qui per la prima volta dal il Fatto Quotidiano una notizia veramente degna di nota. Qui si dice: Israele, orgia all'ospizio. Una Geronto orgy. Gli ospiti di una casa di riposo di Tel Aviv hanno organizzato un festino sfociato in un'orgia. Lo riferisce il quotidiano Israel Hayom, secondo cui alcuni protagonisti hanno superato i 90 anni. Solo alcuni, gli altri avranno superato gli 80. Lo staff della casa di riposo, accortosi del fatto, ha preferito non intervenire. E l'evento non è stato interrotto. Causa rischio di attacchi di cuore, ma i partecipanti sono stati poi diffidati dal ripetere tali comportamenti. Veramente imbarazzante come notizia. Invece si parla tanto di stalking, questa parola ormai di moda, non si dice più pedinare, pedinatore, molestatore, ma stalker, bisogna essere anglofoni a tutti i costi. E vabbè, dice il Corriere della Sera: Germania, arrestato corvo stalker, poi riesce ad evadere dalla cella. Un corvo stalker è finito dietro le sbarre in Germania per aver perseguitato per giorni una donna che alla fine ha chiamato la polizia. La detenzione però non è durata molto. Il volatile è di nuovo libero dopo essere riuscito a fuggire. Un Vallanzasca volatile. È successo a Weinsberg, una cittadina di circa 11.000 abitanti. Fatto vuol dire la montagna del vino, Weinsberg, quindi anche un nome abbastanza emblematico. Comunque nel Baden-Württemberg, nel sud-ovest della Germania, per giorni il corvo ha terrorizzato una donna. Si sedeva minaccioso sulla sua auto, le strappava le buste della spesa e batteva costantemente il becco contro le finestre della sua abitazione. La signora ha perfino sostenuto di essere stata attaccata dal corvo, ha spiegato allo Spiegel, un portavoce della polizia. E così, per evitare una riedizione del film Gli uccelli di Hitchcock, gli agenti sono riusciti ad arrestare il corvo con l'aiuto di un vicino di casa della donna, che lo ha attirato in una scatola piena di mangime. Tuttavia, affidato ad una locale associazione per la protezione degli animali, l'uccello è riuscito a scappare forando col becco la sua cella di cartone. È un corvo incredibilmente intelligente, commenta la polizia. È veramente ora di tirare definitivamente la catena dopo il nostro corvo stalker. E dunque, passiamo all'angolo invece un po' più... noi dobbiamo passare da questo punto di vista dalle stalle alle stelle, con l'angolo dedicato alla musica d'arte, diciamo, o alle colonne sonore. In questo caso parliamo di musica d'arte, parliamo di... no, troppo riduttivo dire musica classica, assolutamente. Parliamo del nostro beniamino Ludwig van Beethoven, qui alle prese con le sue ultimissime opere, delle opere veramente incredibili, delle opere che prefigurano già il Novecento, l'emancipazione della dissonanza teorizzata da Schoenberg. E qui un Beethoven completamente sordo, avendo in questo caso una mentalità più matematica che musicale, essendo privo dell'udito, ci regala dei quartetti d'archi che sono vere e proprie opere più di matematica che di musica. Ed era il 1826, quindi mancava ancora un po' di tempo al Novecento. Questo è Ludwig van Beethoven con la sua Grosse Fuge. Problems, problems, always problems. Rewind anche per Beethoven. E le aritmetiche armonie di Beethoven vengono assorbite dalle frequenze basse e dal minimalismo degli Scorn from Birmingham per passare all'angolo, al cuore di Mystery Tour, l'angolo dedicato ai misteri interplanetari. In questo caso planetari assolutamente, il nostro pianeta Terra. Vediamo su Repubblica un po' un approfondimento della notizia secondo la quale delle piramidi Maya sarebbero dei giganteschi strumenti musicali. Abbiamo letta un paio di domeniche fa senza approfondire e qui c'è appunto questo articolo di Sara Ficocelli di Repubblica. Dalla leggendaria Torre di Babele ai grattacieli di New York, tutto ciò che l'uomo costruisce in verticale rappresenta una sfida. Per la civiltà precolombiana dei Maya, l'obiettivo era riuscire a comunicare con Dio ed è per questo che hanno costruito le loro incredibili piramidi. Secondo una ricerca internazionale pubblicata sul New Scientist, i gradini funzionavano come uno strumento musicale, progettati per provocare la diffrazione del suono dei passi che li percorreva, riproducevano un rumore simile a quello delle gocce di pioggia che cadono in una pozzanghera. Destinatario del messaggio musicale, il dio della pioggia Chac, venerato nelle zone del Messico con scarse precipitazioni. Per capirlo, gli studiosi Jorge Cruz della Professional School of Mechanical and Electrical Engineering di Città del Messico e Nico De Klerk del Georgia Institute of Technology hanno confrontato le frequenze sonore che si producono salendo i gradini del castillo nel complesso archeologico Maya di Chichen Itza nello Yucatan con quelle della piramide della Luna e Teotihuacan. Quella a Teotihuacan, appunto, nel Messico centrale. In entrambi i casi hanno registrato i suoni sentiti alla base quando qualcuno sale i gradini, osservando in tutti e due i casi una somiglianza con il rumore e la frequenza delle gocce di pioggia. Secondo i ricercatori, ciò è dovuto alla diffrazione del suono provocata dalle scale, che rompendo l'onda sonora riproducono un effetto simile a quello di un acquazzone. La dottoressa Elizabeth Graham dello University College of London precisa però che entrambe le piramidi sono state restaurate e che è dunque inattendibile uno studio basato su superfici non originali. E vabbè. Ma si dice che dalla capacità del castiglio di riprodurre suoni si discute da anni, ma nessuno è mai riuscito a chiarire né il meccanismo che provoca il fenomeno né la sua eventuale utilità. Il primo ad analizzarlo fu l'ingegnere acustico David Lubman nel 98, secondo il quale il tempio dedicato a Kukulkan, dio del vento e della conoscenza, un dio serpente, l'equivalente di Quetzalcoatl degli Aztechi, serpente piumato, Kukulkan cinguettava, quindi questo tempio cinguettava. Qualche anno dopo De Klerk, affascinato da queste ricerche, partì per Chichen Itza per studiare personalmente la cosa. Con un po' di immaginazione, spiega Cruz, possiamo immaginare le piramidi Maya come giganteschi strumenti musicali da utilizzare in modo sempre diverso, ma purtroppo nessuno può provare che i membri della civiltà precolombiana li suonassero davvero. Comunque, le analisi sull'acustica della piramide mostra che il riscontro preciso dell'eco dipende dal suono che lo provoca. Quello del tamburo, ad esempio, produce un diverso effetto di risonanza. Quindi qualcosa c'è in queste misteriose piramidi messicane. Adesso ancora un po' di musica. E di musica davvero inaudita. Questa sera la nostalgia la fa da padrona e ci fa tornare nel 1994 con il primo disco prodotto dalla poi fallita Polyphemus. E qui qualcuno che ascolta probabilmente a Lussemburgo avrà già capito di chi si tratta. Loro vengono da Ostia Lido e hanno registrato questo bellissimo Wish I Could Dream It Again con il produttore svedese Dan Swan degli Edge of Sanity. Appunto, questo disco poi gli ha spianato la strada, oggi sono un nome veramente interessante della scena mondiale, direi, di questa musica assolutamente indefinibile. Stiamo parlando naturalmente dei Novembre e noi ci ascoltiamo appunto dal primo album di debutto, Wish I Could Dream It Again, per Polyphemus del 1994, Night at Once, Novembre. Addirittura influenze black metal per i nostri novembre, non a caso Carmelo Orlando nella foto di gruppo indossa orgogliosamente una maglietta burzumiana, giustamente. È ora però giunto il momento di addentrarci nel Tour Dates di Mystery Tour. Un Tour Days molto nutrito, anche se dobbiamo appunto ricordare che la data dei Saxon al Live Club di Trezzo sull'Adda è stata spostata. Non è più martedì 13 ottobre, ma è stata spostata a lunedì 15 marzo 2010, quindi avremo i biglietti in omaggio per i nostri ascoltatori. Ma torniamo comunque al Live Club di Trezzo sull'Adda, perché si avvicina il 25 ottobre, data del concerto degli svizzeri Gotthard. In domenica prossima metteremo in palio i biglietti per gli ascoltatori per andarsi a vedere al Live Club di Trezzo sull'Adda le star del rock melodico europeo del momento, i Gotthard, che addirittura suonano insieme agli Europe. Mi raccomando, una data imperdibile, il 25 ottobre, noi vi regaliamo i biglietti omaggio. Altre atmosfere per i finlandesi Amorphis ai Magazzini Generali di Milano il 4 novembre. Due giorni dopo al Teatro degli Arcimboldi di Milano suoneranno, quindi il 6 novembre, gli, diciamo, beh, c'è scritto Yes. Io fatico a considerarli Yes, perché posso anche passare sul fatto che c'è Oliver Wakeman invece del padre Rick Wakeman alle tastiere, giustamente, che data l'età e i problemi di alcolismo. Però il fatto che non ci sia John Anderson alla voce mi lascia alquanto perplesso. Comunque 6 novembre Yes al Teatro degli Arcimboldi di Milano. 12 novembre al Live Club di Trezzo sull'Adda in provincia di Milano abbiamo i Motor Psycho della Norvegia, li abbiamo avuti anche nel 2000 qui alla Festi Radio Onda d'Urto, e vi diamo biglietti in omaggio anche per appunto il 12 novembre e per i Motor Psycho, e ve li diamo anche per il concerto Barclay James Harvest dall'Inghilterra, Live Club di Trezzo sull'Adda, il 18 novembre, per gli amanti del prog rock più bucolico. L'8 dicembre al Music Drone di Milano, Ex Transilvania, i Paradise Lost, non vediamo l'ora di vederli. Tre giorni dopo, 11 dicembre, ad Arcene, in provincia di Bergamo, al Soundtrack Live avremo il più che re di vivo, Paul Di'Anno, storica voce degli Iron Maiden. Ed ora sempre più nostalgici, sempre più indietro nel tempo, a questo punto torniamo addirittura al 1986, quando uscì questo capolavoro degli Slayer. Disco violentissimo ma anche pieno di atmosfere oscurissime, South of Heaven, prodotto ovviamente dall'immancabile Rick Rubin. Ci ascoltiamo Spill the Blood, Slayer. We'll be right back. inenarrabile l'oscurità di questo disco, South of Heaven, dei californiani Slayer, prodotto ovviamente da maestro Rick Rubin. E dunque, anche questa puntata di Mystery Tour, ancora una volta da solo, speriamo che domenica prossima il professore torni, e anzi, ce lo auguriamo vivamente. Ci ascoltiamo invece un ultimo brano per salutarci. Da ricordarvi che dunque noi andiamo in onda tutte le domeniche alle ore 20 qui sulle frequenze Radio Onda d'Urto sin dal 1998. Visitate il sito www.mtour.co.nr come numero, oppure il myspace.com/mtour. Potete riascoltare le vecchie puntate, potete ascoltare molte interviste. Tra poco noi ne registreremo una con Max Micheletto, storico chitarrista degli Asgard, ora chitarrista di Lost Iguana, grande musicista. L'intervista la troverete disponibile da martedì notte in poi sul sito mtour.co.nr, ma intanto potete già sentire interviste a Hugh Cornwell degli Stranglers, a Martin Barr dei Jethro Tull, Martin Orford degli IQ, addirittura special, uno special sul Museo Rosenbach, uno su TV Smith con l'intervista, l'intervista a Mike Davis degli MC5. Insomma, ci sono tante interviste che potete ascoltare nel nostro mtour.co.nr. Ci salutiamo con un gruppo tedesco, speriamo di rivedere presto in Italia. Parliamo dei Crimson Ghost, i degni emoli ormai superiori ai Misfits. Questo è Blood Red, a domenica prossima! Non è serata, l'intro ci ha fregati, non è Blood Red, ma questa è Blood Red.